Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse stanno chiudendo la seduta sui minimi, il calo è particolarmente significativo a Milano, meno 2,1%, con ST Microelectronics che perde il 4,3%, Italcementi il 4,2%, Impregilo il 4,1%, Ciri il 4%, Pirelli 3,80%, Bulgari il 3,4%, il 3,3% lo perdono Ansaldo STS, ma anche Mediolanum e Tenaris. Il Banco Popolare perde il 3%, come Intesa San Paolo e Autogrill e Mondadori e anche Unicredito, e qui mi fermo. Di positivo c'è solo Fondiere Assai più 0,90%, Eterna più 0,2%, ne parleremo come sempre durante i mercati finanziari. L'euro anche sta ritracciando, come si dice in gergo, è sotto i massimi, è 1,48,65. I temi di questa giornata economico-finanziaria: di nuovo il dibattito sulla riforma dei servizi idrici, dopo via libera alla Camera al decreto Ronchi, già approvato dal Senato, che prevede la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, compresa l'acqua, quindi l'ingresso del 40% almeno dei privati. Poi parleremo di temi legati alle tasse. Sostanzialmente è in corso il convegno dei commercialisti italiani, sono usciti anche dei dati sulla pressione fiscale reale in questo paese, che supererebbe il 50%, e poi avremo il nostro ospite, chi ha vinto oggi il premio imprenditore dell'anno, Ernst Jung, che è uno di questi imprenditori, lo dico perché abbiamo avuto modo di intervistare qualche anno fa, uno di questi imprenditori che noi abbiamo chiamato umanisti, mistici, cioè investe il valore aggiunto che crea nell'impresa, è quello che deriva dall'atteggiamento che ha anche con i propri dipendenti e gli investimenti che fa anche di carattere immateriale, non solo diciamo macchinari e marketing, e lo avremo ospite nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda invece tutto il dibattito che si è aperto con la riforma delle professioni, lo stato di salute dei professionisti, mi riferisco agli avvocati ma anche i notai e i commercialisti, domani dedicheremo una puntata proprio a queste tre categorie, anche perché l'aver reintrodotto la tariffa minima negli avvocati è qualcosa che ha fatto arrabbiare molti giovani avvocati, chi insomma deve diventarlo o lo è appena diventato, e ha fatto storcere il naso a più di un osservatore, perché sembra un meccanismo che irrigidisce il mercato degli studi legali invece che liberalizzarlo. Non si capisce perché ci deve essere un tariffario minimo, visto che non c'è per altre professioni. Uno si va dal dentista, non è che ha la tariffa minima. E va bene, ma ne parleremo domani, perché tutto in una puntata non ci sta. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve, a partire dai dati OCSE. Eh sì, perché l'OCSE, come già i nostri GR vi hanno annunciato, ha rivisto al rialzo le stime di crescita nel 2010 in tutti i paesi dell'area, e questa è una buona notizia, all'1,9% la media, contro uno 0,7% previsto in precedenza, quindi ha più che raddoppiato la previsione sulla crescita economica nel 2010. Nel 2011 dovrebbe essere ancora più robusta, un 2,5%. Quest'anno invece la media dei paesi dell'OCSE quanto a PIL vedrà un calo del 3,5%. Purtroppo il picco della disoccupazione sarà il prossimo anno. Nel 2010 si toccherà il 9% di disoccupazione in media, con una modesta correzione nel 2011, per cui purtroppo sarà uno zoccolo di disoccupazione che non verrà scalfito facilmente nel 2011. Questo dice l'OCSE. Dal 2007 al 2010 le previsioni sono di una perdita complessiva di 21 milioni di posti di lavoro nei paesi aderenti. Per quello che riguarda l'Italia è in linea con questa tendenza, nel senso che da un lato il PIL nel 2010 è stato rivisto un po' al rialzo, da uno 0,7-0,8 si è passati all'1,1%, quindi almeno superiore all'1% l'anno prossimo. E però nel 2011 farà 1,5%, è chiaro che con questi tassi, se quest'anno facciamo meno 5, ci metti 3-4 anni almeno a recuperare quello che hai perso, quindi arriverai al 2013. Soprattutto preoccupa però l'OCSE non tanto la disoccupazione italiana, che sarà in linea con la media, anzi un po' sotto la media dell'OCSE, all'8,5% nel 2010 e all'8,7% nel 2011. Preoccupa l'OCSE soprattutto il nostro debito, che senza manovre correttive arriverà nel 2011 al 120% del PIL, con un deficit oltre il 5%. Questi dati li ha commentati al microfono la nostra Alessandra Schepisi, a margine del convegno Lavoro Vero in Agricoltura, organizzato da Confagricoltura, il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi. I dati OCSE confermano ciò che sapevamo, cioè un 2010 diversamente complicato dal 2009, nel senso che se il 2009 è stato l'anno della gelata generalizzata, il 2010 appare essere caratterizzato da luci di ripresa e da ombre sull'occupazione. Per questo vogliamo tenere alta la guardia dal punto di vista della liquidità delle imprese e della occupabilità delle persone, del sostegno al loro reddito e dell'investimento nelle loro competenze, e allo stesso tempo conservare una linea di stabilità della finanza pubblica. Sulla Fiat continua la protesta degli operai che chiedono un incontro al governo. Ci saranno tavoli negoziali nei quali discutere, perché come ho detto i piani non si subiscono ma si negoziano. E l'OCSE è intervenuta anche sullo scudo fiscale italiano, che ha detto deve restare una misura eccezionale. È un suggerimento, l'OCSE obiettivamente non ha nessun potere per intervenire, e ci mancherebbe. In Italia ha detto c'è stato un miglioramento dell'adesione agli obblighi tributari e minor ricorso alle misure una tantum negli ultimi anni, per cui lo scudo fiscale deve essere visto dai contribuenti come una misura eccezionale. Restiamo in tema di fisco, perché i commercialisti, appunto, oggi nel corso della seconda assemblea nazionale dei dottori commercialisti e per voce del loro presidente Claudio Sicigliotti, hanno diffuso i dati sulla pressione fiscale in Italia reale, cioè se calcolata sul PIL senza la componente stimata di economia sommersa. Ebbene, nel 2008 si è arrivati al 50,6% e non al 42,8% come il dato statistico vuole quanto a pressione fiscale, che vuol dire che noi in questo modo supereremmo tutti i paesi europei, anche la Danimarca che è al 49,2%, la Svezia al 47,6%, il Belgio al 46%. Sempre di tasse ha parlato oggi anche un rapporto da World Bank e di PricewaterhouseCoopers, che ha visto l'Italia essere in fondo alla classifica mondiale che misura la semplicità di pagare le tasse per le aziende. Diciamo che sospetto ce l'avevamo anche noi, però adesso viene anche certificato. Insomma, se si va a vedere la classifica di quanto facile è pagare le tasse per un'impresa, noi scendiamo al 136esimo posto su 183 paesi. E di carico fiscale insopportabile e di assenza di interventi concreti ha parlato oggi il presidente della piccola industria e Confindustria, Giuseppe Morandini, al microfono la nostra Anna Marino, a margine del premio Ernst Young imprenditore dell'anno. Sentiamo. Sono sempre essenziali, perché purtroppo abbiamo un carico fiscale sulle imprese italiane che è insopportabile, però sono temi di una delicatezza tale che vanno affrontate dopo gli annunci con degli interventi concreti. Se noi avessimo tolto un euro per ogni parola dedicata all'IRAP, avremmo eliminato le tasse per le prossime generazioni. Il tema fiscale va affrontato con concretezza e con un intervento pianificato negli anni. Ad esempio sull'IRAP io suggerirei di iniziare con un piano quinquennale di progressiva riduzione del costo del lavoro dalla base imponibile della imposta. Credo che così sia un modo serio di risolvere i problemi, che possa dare anche fiducia e speranza nel futuro a tutte le imprese che investono e che hanno alta intensità di manodopera. E sempre il presidente della piccola industria e Confindustria, Giuseppe Morandini, è tornato sul tema dei miliardi. Si calcola siano quasi 60 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione ha con le imprese e che non sta pagando. I crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, ha detto, inaccettabile, anche perché per principio non pagare è vergognoso. Per principio il non pagare è una cosa vergognosa, quando a non pagare è lo Stato la cosa è ancora più vergognosa ed è addirittura insostenibile in un momento di crisi come questo. I 60 miliardi che lo Stato ci deve sono 60 miliardi di liquidità che le aziende non ricevono. Ieri ero in Sicilia, ci sono tante piccole aziende che hanno a rischio la propria sopravvivenza proprio perché non stanno ricevendo pagamenti dai ministeri e dalla pubblica amministrazione. A questo bisogna dire basta, anche perché noi i contributi dei nostri dipendenti, i contributi delle aziende, le nostre tasse le versiamo con regolarità. Allora 349-238-6666 per i vostri sms, vedo già molti messaggi sull'acqua, ancora un minuto di pazienza perché ci sono sviluppi sulle ipotesi dei PM nell'ambito dell'inchiesta sulle bonifiche industriali dell'area di Santa Giulia. Allora, l'area di Santa Giulia è quella che appartiene alla società Risanamento, da cui è dovuto uscire pur avendo ancora una quota di maggioranza, anzi adesso no, con la ristrutturazione è sceso sotto il 50% l'immobiliarista Luigi Zunino, ha rischiato il fallimento, adesso è commissariata, arriverà un nuovo amministratore delegato nella persona di Claudio Calabi, amministratore delegato del gruppo Sole 24 Ore. Ma qui c'è uno sviluppo diverso che non riguarda tanto il crack di Risanamento ma la gestione dell'area. Allora, Giuseppe Grossi, che è l'imprenditore che è finito in carcere, titolare della Green Holding, per un insieme di giro anche di corruzione. Ebbene, secondo i PM che stanno indagando su questa inchiesta, l'ipotesi è che parte del terreno sia stato inizialmente portato abusivamente nel parco naturale di Bareggio, cioè del terreno contaminato sia stato portato nel parco naturale di Bareggio, una volta scoperto trasferito in una discarica autorizzata vicino a Pisa. Però i conti non tornano, cioè il terreno contaminato e elevato non è sufficiente, e quindi il sospetto è che ci sia una parte rimanente degli scavi con terreno inquinato, perché era un'area industriale, che siano stati seppelliti al loro posto, dove adesso sta sorgendo Santa Giulia. Norman Foster, se non ricordo male l'architetto, non vorrei sbagliare, case vendute a prezzi carissimi. Speriamo che sia solo un'ipotesi dei PM e non sia vero, perché sarebbe veramente una beffa. In sostanza i PM stanno indagando perché questi movimenti di terreno risulterebbero solo cartacei e senza alcun trasporto effettivo. Ultima notizia, arrivata poco fa, Harley Davidson, a tutti i motociclisti interesserà, ha confermato che metterà sul mercato lo storico marchio italiano MV Agusta, che ha acquistato poco fa nel luglio del 2008, lo metterà in vendita per 70 milioni di euro. L'advisor, cioè la banca che si occuperà di trovare un compratore, è BNP Paribas. Adesso, primo tema, torniamo sulla riforma dei servizi idrici, su cui si è letto, detto di tutto, con a mio avviso anche una grossissima confusione. Questo è un programma di economia, quindi ci occuperemo della sostenibilità economica e di alcuni ragionamenti. Se poi uno è contro la privatizzazione o a favore delle privatizzazioni per principio, questo è un altro paio di maniche. Allora, via libera dalla Camera al decreto Ronchi, abbiamo già detto, potranno entrare con un 40% dentro le società che gestiscono, municipalizzate, che gestiscono l'acqua in Italia. Allora, a me sembra che si possa, ieri abbiamo sentito chi presiedeva la gestione dell'acqua a Palermo e ad Arezzo, due casi completamente diversi. Anche oggi sentiremo due casi forse un po' diversi. Da un lato, infatti, ringrazio per averci raggiunto il collegamento l'ingegner Ivo Monteforte, che è amministratore unico dell'acquedotto pugliese. Buonasera dottore. Allora, voi gestite l'acquedotto più grande d'Europa, se non ricordo male, con 20.000 chilometri di rete, perché opera anche in Campania e Basilicata, 1.700 dipendenti, 370 milioni di fatturato, 850.000 utenti, è controllato dalla Regione Puglia con una quota del 9%, e anche c'è una partecipazione del Comune di Torino e della società privata Mediterranea delle Acque. E poi grazie anche a Lanfranco Sen, che è docente di economia regionale all'Università Bocconi, ma attualmente presidente della metropolitana milanese, che è la società che controlla l'acquedotto di Milano. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. 2.330 chilometri di condutture, 1.300.000 utenti, ed è gestito dalla società per azione controllata dal Comune di Milano. Allora, prima domanda non ideologica: si può immaginare che un privato entri in un settore come quello dell'acqua guadagnandoci qualcosa, perché sennò il privato giustamente non si fa vedere. La domanda non è speciosa, l'acqua è un bene oltre che pubblico che ha un prezzo calmierato, come spesso ci sono, dovrebbero essere alcuni prezzi, per cui non è pensabile che se un privato entra il prezzo dell'acqua possa schizzare a chissà quale livello, per cui i margini nella gestione delle acque sono margini molto bassi. Professor Sen. Sì, credo che sia corretto quello che lei dice, cioè sostanzialmente l'acqua è un servizio, è un bene pubblico e come tale va erogato in modo tale che sia sostenibile la spesa da parte dell'utente. C'è sempre da mettere in relazione il prezzo con la qualità, la tariffa con la qualità. Milano ha la tariffa tra le tariffe più basse d'Italia, tra le tariffe più basse d'Europa, perché oggi noi distribuiamo acqua a 55 centesimi di euro per 1000 litri, che vuol dire che la tariffa pagata è molto bassa, il che non include che sarebbe forse auspicabile che l'entrata di un privato, qualora dovesse succedere, debba aumentare, consentire di aumentare gli investimenti per fare manutenzione e quindi presumibilmente alzare la tariffa e garantire un profitto adeguato al loro ingresso e alla loro gestione. Ecco, io chiarisco che la legge, il decreto Ronchi, prevede l'obbligo delle società che gestiscono l'acqua di trovarsi un partner a cui cedere almeno il 40% delle azioni, altrimenti i contratti potrebbero essere rimessi in discussione e poi entro il 2015 i comuni dovranno scendere sotto il 30% nell'azionariato. Comunque lei dice attenzione, però il contributo del privato può arrivare, ma non facciamoci grosse illusioni sui guadagni possibili, contrariamente a quanto non si succede in borsa, dove acque potabili anche oggi guadagna il 28%, il miglior titolo in assoluto, e Mediterranea Acqua il 14,3%. Ingegner Monteforte, anche per lei la stessa domanda. Voi gestite un acquedotto immenso che però purtroppo, lo dico, ha anche il livello più alto di perdite nella rete d'Italia, quasi il 50%, cioè su 2 litri uno non arriva a destinazione. E il prezzo dell'acqua a Bari è tra i più alti in Italia, 330 euro a famiglia contro i 109 euro l'anno di Milano. Ingegnere? Non è proprio così, questa è un'informazione non completamente esatta. Bene. Perché intanto le do una buona notizia, noi stiamo riparando le perdite, negli ultimi 3 anni abbiamo recuperato 40 milioni di metri cubi, che sono un lago di medie dimensioni, e siamo scesi al 35%, cioè questa è la vera verità. Oh. I dati che vengono diffusi su di noi sono dati vecchi, sono dati del 2006. Nel 2006 è iniziata questa grande investimenti che Acquedotto sta facendo, che hanno consentito di riparare una quantità incredibile di perdite. Ora siamo al 35%, meglio di molte città e regioni del nord. Tenga conto che noi non siamo come Milano, che ha una alta densità di abitanti sulle tubazioni. Noi abbiamo 20.000 chilometri di tubazioni, quindi se dividiamo le perdite per i chilometri di tubazione, a livello di perdite specifiche non siamo poi così messi male. Ma detto questo, volevo dire che noi stiamo facendo una quantità di investimenti notevolissima, 400 milioni negli ultimi 3 anni, e abbiamo di fatto decuplicato gli investimenti rispetto ai 3 anni precedenti. In poche parole, cosa voglio dire? È iniziato un circolo virtuoso anche per l'acquedotto pugliese, perché l'azionista, il governatore della Puglia, ha voluto così. Non so se ho capito male perché sono in autostrada, ma lei ha detto che noi abbiamo un azionariato, no, il nostro azionista è solo la Regione Puglia e una piccola quota della Regione Basilicata. Quindi nessun azionariato privato come risultava noi? Noi non abbiamo nessun privato, noi siamo un'azienda al 100%, siamo un SPA, ma di proprietà pubblica. Chiedo venia, ci deve essere un errore da parte nostra, ci mancherebbe se non ci fidiamo, visto che lei è quello che amministra la società. Venendo all'ingresso dei privati, le faccio una domanda molto secca. Voi avete appena messo 400 milioni di euro, no? Sono 400 milioni che non rivedrete più. Cioè, voglio dire, in un'azienda privata, se io metto 400 milioni, lo faccio perché questo mi permette di generare un volume d'affari e un ritorno almeno superiore, sennò sono un pazzo. Ah, il privato non solo vuole il ritorno del capitale, ma vuole anche giustamente guadagnarci il ritorno del capitale. Io che da sempre sono nel mondo delle municipalizzate e dell'acqua, noi abbiamo sempre fatto dei sacrifici incredibili e non abbiamo mai avuto remunerazioni, ma anche lo stato attuale degli acquedotti, non a caso i nostri acquedotti hanno questi problemi di perdite, di obsolescenza, perché le tariffe sono sempre state tenute politicamente estremamente basse e non hanno consentito la ricostituzione del cespite. E quindi anche manutenzioni straordinarie non ne vengono fatte. E poi c'è una grande anomalia, che le tariffe le determinano i sindaci. I sindaci hanno tutto l'interesse a che le tariffe siano basse, perché non riescono a reggere il confronto con i cittadini, mentre invece noi abbiamo bisogno di tariffe per pagare gli investimenti, perché ormai le risorse dello Stato sono vicine allo zero. Quindi gli investimenti si pagano solo a tariffa. Allora, nel caso della Regione Puglia siamo abbastanza fortunati, perché abbiamo, e questa è l'altra novità molto positiva, finalmente ci hanno approvato il piano d'ambito, quindi abbiamo certezza tarifaria di qui al 2018, questa è l'altra notizia che le voglio dare. Abbiamo un piano importante di investimenti di 1,5 miliardi da fare in 9 anni e ci dovremmo riuscire, perché ormai la macchina acquedotto pugliese riesce a spendere quasi 200 milioni all'anno, che anticiclici sul territorio del sud non è cosa di poco conto, siamo la più grande stazione appaltante e questo è un momento molto delicato. Un miliardo lo finanziamo attraverso la tariffa, sì. E 500 milioni invece vengono dai fondi regionali, quindi ecco. Nazionali sì, mi scusi se io semplifico, ma ho bisogno di capire, e chiedo anche a questo punto il commento al professor Sen, in quanto appunto economista oltre che presidente della metropolitana milanese, quindi gestore dell'acqua di Milano. 400 milioni vi servono per appunto eliminare questi sprechi. Ha ragione chi dice: ah, invece che un litro su due ne perdete un litro su tre. Beh, meglio un litro su tre che un litro su due. Vediamo poi se si arriverà a livelli ancora più bassi di acqua persa. Lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Però, professor Sen, io fossi un privato e volessi mettere 400 milioni, perché è chiaro che se perdo il 50% di quello che faccio transitare poi non ho margini. Quando li riò questi 400 milioni o 100 milioni o un milione? Ma, cioè c'è margine lì o no? Perché questo, perché sì, al di là dei principi ideologici, il privato, alcuni scrivono il privato o no, ma chi se ne frega, privato o pubblico? Il problema è capire se ha senso dire che il privato può entrare lì dentro oppure no. Ma guardi, è un rischio imprenditoriale non da poco, tant'è vero che i privati che oggi investono nel settore dell'acqua non sono neanche tantissimi, perché il margine per poter recuperare gli investimenti è di alzare i profitti, però alzare i profitti cozza contro l'altro stakeholder o l'altro interessato, portatore di interesse, che è l'utente, il quale non può subire, ed è sensato che non subisca un aumento delle tariffe sproporzionato rispetto a quello che è la qualità del servizio che porta. Quindi è un bel rischio che ogni singola situazione deve valutare. Un privato credo che abbia convenienze, abbia interesse, ci sono grandi imprese nazionali e internazionali che vogliono entrare nel cosiddetto business dell'acqua, ma questo non vuol dire che la redditività sia una redditività particolarmente elevata, quindi dipende anche molto dall'efficienza delle imprese, perché se uno entra in un'impresa che è già molto efficiente, il margine di miglioramento e il margine di redditività è relativamente contenuto. Se uno invece entra in una situazione abbastanza precaria dal punto di vista del bilancio, allora sì che l'intervento del privato è non solo interessante dal punto di vista pubblico, ma anche interessante, può essere interessante anche per lui. Quindi, cioè, le dice, se uno entra in una società che già sta lavorando col massimo dell'efficienza e con bassi margini, è difficile che tu possa fare meglio come privato. Se invece trovi una situazione gestita nel pubblico in senso negativo, cioè senza criteri di efficienza, senza un'alta produttività, lì puoi avere qualche margine in più. Sì, perché la razionalizzazione lì ha molto spazio per avvenire. Dunque, ingegner Monteforte, lei che amministra l'acquedotto più grande d'Europa, è pensabile entrare o investire come si investe in altri settori? Perché poi alla fine tutto qui ruota. E chiaramente ci sono differenze, però insomma si può immaginare che un privato metta il 15, 20, 30% e ci guadagni, se no il privato non arriva. E poi se mi spiega anche perché comunque la qualità dell'acqua è così slegata dagli investimenti fatti. Prego. Allora, intanto già con l'approvazione della Galli 15 anni fa c'era stata un'apertura al privato, i privati, soprattutto i francesi, hanno messo il piedino in Italia, ma si sono accorti della totale assenza di regole certe e di tariffe certe, perché nel nostro paese la tariffa è un fatto politico, anche se c'è un metodo, non deriva da, proprio da un metodo, perché poi tutto sommato gli ATO sono la sommatoria dei sindaci che difficilmente, come dicevo prima, aumentano le tariffe perché ti spettano queste tariffe. Quindi questa mancanza di regole certe ha scoraggiato molto gli investitori stranieri. Ora vediamo, ma anche in azione, vediamo se con questa nuova riforma ci sarà qualche possibilità. Ma io le dirò di più, noi stiamo combattendo una battaglia con il nostro ATO perché l'efficientamento dell'azienda lo vuole incamerare lui, cioè non ce lo vuole riconoscere come azienda, quindi è totale mentalità pubblica, quindi capisce che se io efficiento l'azienda, come comunque stiamo facendo, ma i benefici in termini di euro, ecco anche un po' una risposta al collega di Milano, se li vuol tenere l'ATO, e con questo le ho già detto che… L'ATO è l'ente pubblico, lo dico per chi ascolta, se non si capisce. L'ATO è mi scusi il tecnicismo, l'ATO è l'autorità di ambito ottimale formata da tutti i sindaci. Quindi questa mancanza di regole, difatti noi diciamo come Federutility che bisogna togliere le tariffe e fare un'autorità. Capisco che un'ennesima autorità, anche se si può abbinare all'autorità dell'energia elettrica e del gas, che ha funzionato bene e non abbiamo grandissimi problemi in quel settore, quindi ci vuole un'autorità terza, nazionale, slegata dal territorio, perché si figuri, stavano approvando le mie tariffe in campagna elettorale, e quando mai un sindaco mi darà la tariffa che mi spetta in campagna elettorale, anche se fosse di un solo centesimo, è assolutamente non immaginabile. Sì, e poi quello che lei diceva, attenzione che se poi però il pubblico si incamera i vantaggi, l'efficienza, la maggiore produttività che voi ottenete, chiaramente poi non viene reinvestito sull'acquedotto. Però insomma, mi dà in una battuta che poi vorrei sentire anche il presidente Sen, perché la qualità dell'acqua si... Mi faccia dire ancora una cosa. C'è questa favola che le tariffe pugliesi sono le più alte d'Italia, e questo piace perché c'è inefficienza, tariffa alta. Non è vero. Fino nel 2009 siamo al 43esimo posto, con gli aumenti che ci verranno col piano d'ambito andiamo al 33esimo posto, e una famiglia pugliese di 3 persone spende 263 euro all'anno. Questi sono i dati veri. Tutti quelli che sento in giro non so da dove escono. E allora però anche voi iniziate a fare una campagna di comunicazione, perché tutto abbiamo una perdita che è molto inferiore. Io sono contento, Presidente Monteforte, però evidentemente i dati che circolano sono vecchi. Chiamate le redazioni e dateci dati nuovi. Presidente Sen, anche per la stessa domanda, Monteforte, mi dici perché la qualità dell'acqua è così diversa nonostante gli investimenti? Allora, la qualità è diversa, intanto la qualità dell'acqua dipende dalle fonti di approvvigionamento, perché se uno deve potabilizzare acqua di superficie di un fiume è un conto, e se invece ha l'acqua che viene dalle sorgenti è un altro. Comunque noi abbiamo fatto investimenti, bisogna fare comunque investimenti potenti sulla qualità, noi abbiamo 6 laboratori all'interno, abbiamo un telecontrollo che controlla in tempo reale alcuni parametri su tutta la nostra rete, e facciamo investimenti tipo carboni attivi per migliorare, abbiamo speso 50 milioni negli ultimi 2 anni per migliorare la qualità, quindi bisogna investire anche sulla qualità. Certo, Presidente Sen, anche per lei... veramente 1 milione di euro investito per diventare appetibile per un privato dovrebbe essere svincolato dalle tariffe, diciamo, comunali, quindi porta di fatto a aumentare il prezzo dell'acqua, gira e rigira, sempre lì arriviamo? Ma io sono convinto che questo sia più o meno necessario. Il problema, in questo senso concordo con Monteforte sul fatto che ci vuole un'autorità o un soggetto neutrale che tenga conto dei 3 obiettivi, che sono quello dell'impresa di poter fare il giusto profitto, la remunerazione del capitale investito e anche la remunerazione di una della voglia di essere efficienti da parte del sistema manageriale e produttivo. Ci vuole una risposta adeguata e non inflattiva nei confronti degli utenti che evidentemente devono pagare un prezzo adeguato a un bene di pubblica necessità. E poi ci vuole anche l'attenzione al valore elettorale o al valore pubblico che il messaggio di offrire servizi buoni da parte di un'amministrazione locale deve comportare. Quindi le motivazioni vanno trovate, le motivazioni, i livelli di soddisfazione vanno trovati combinando questi tre interessi, in parte conflittuali inevitabilmente e in parte assolutamente giustificati, giustificabili. Quindi in questo senso credo che il privato che investirà un milione di euro nell'acqua, scegliendo di investirlo alternativamente ad altri settori, deve sapere che deve fare i conti con anche altri interessi che in questo caso sono assolutamente legittimi. Sì, io dico adesso, per concludere, qui occorre che però anche la politica si decida, perché se l'acqua è un bene talmente pubblico che diventa anche un elemento elettorale, per cui sono quei beni che non vai a toccare a livello comunale, regionale, perché poi rischi di non essere eletto, va benissimo, però allora forse non ha senso metterla in concorrenza, cioè ha senso sovvenzionarla sapendo che i soldi che butti dentro sono fatti per un servizio pubblico ma non per guadagnarci, cioè difficilmente avrai un ritorno se tieni le tariffe così basse. Oppure se si decide che l'acqua è una utilities, come dicono quelli che hanno studiato, e quindi va trattata come il gas, come l'energia elettrica e altri servizi, allora però è immaginabile che anche le tariffe aumentino a seconda degli investimenti effettuati, e quindi 400 milioni messi per esempio dall'acquedotto di Pugliese per migliorare la rete si sarebbero in qualche modo, magari non tutti, trasferiti sulla bolletta, perché io così la capisco. Monteforte, d'accordo, in un'altra situazione da privato quei soldi sarebbero andati sulla bolletta o no? Certo, se non ci sono fondi pubblici vanno tutti sulla bolletta. Ok. Almeno questo l'abbiamo capito, il che non vuol dire che non ci possa essere un interesse e una che non possa essere profittevole come intervento e come investimento, però attenzione, questo vuol dire che anche i prezzi devono potersi muovere come nel settore privato, e su questo io non sono così convinto che si crei consenso nell'opinione pubblica e che quindi la politica possa poi alla fine avere un interesse. Staremo a vedere, grazie anche per aver corretto i dati che avevamo a disposizione in senso migliorativo al amministratore unico dell'acquedotto pugliese, l'ingegnere Ivo Monteforte, grazie al presidente di Metropolitana Milanese Lanfranco Sen. Mi sembra chiarissimo quello che è emerso, sentendo i responsabili dell'acquedotto milanese e quello dell'acquedotto pugliese: gli investimenti necessari per la rete sono investimenti che, se devono diventare profittevoli nel caso entrasse un privato, devono portare aumento delle tariffe. Non si esce da questo a meno che il pubblico non si metta a pagare, cioè noi tutti, gli investimenti, e il privato ottenga solo i guadagni, ma la vedo un po' difficile. Per cui, come avviene anche per altre privatizzazioni, alcuni di voi hanno ragione sulla società Autostrade. È chiaro che il gruppo Autostrade, se deve gestire una rete autostradale e deve fare degli investimenti, ha bisogno anche di vedere i ritorni. Qua mica si fa beneficenza. Sull'ingresso dei privati ci sono casi virtuosi come quello di Arezzo che abbiamo raccontato ieri, contenti anche molti aretini che ci scrivono, anche se la bolletta è aumentata come prezzo, è triplicata, però il servizio è molto buono. E casi invece in cui le cose non vanno. Acqua Latina è all'ingresso di un privato forte, già dentro il decreto Ronchi, la francese Veolia ha il 49%, i cittadini di Aprilia e di Latina non vogliono pagare le bollette anche ai francesi, quindi alla società, vogliono pagare direttamente al comune. Oltre 4.000 famiglie non riconoscono il gestore. Perché? Perché le bollette si sono triplicate e questo non gli va bene. Questo per dire che attenzione, che poi si fa presto a fare ragionamenti sulla carta o a livello ideologico, poi bisogna scontrarsi anche con la realtà di un mercato che per ora non esiste, finché le bollette verranno tenute calmierate dagli enti locali, regionali o comunali che siano. Adesso la borsa e la giornata non allegrissima sui mercati. Aspettavamo un altro po', facciamo la campanella di chiusura di Wall Street, invece perché la borsa ha chiuso 20 minuti fa. Comunque, andiamo avanti con i titoli: meno 2,2% il FTSE MIB, meno 2% Milano come indice generale, peggio di Milano non fa nessuno, nel senso che Parigi ha perso l'1,80%, Francoforte meno 1,5%, Londra meno 1,4%. L'America sta perdendo l'1,4% sul Dow Jones e il 2% sul Nasdaq. Euro a quota 1,4884. Benissimo oggi i titoli legati al settore dell'acqua, lo abbiamo già detto. Comunque, acque potabili più 28%, Mediterranea acque più 14%, 4,5%, i due migliori titoli in assoluto, poi le Canfin più 4,20%. Poligrafica San Faustino, dai tempi della New Economy che non la sentivamo, più 2,5%, e poi Unilever più 2%. Peggior titolo, Seat Pagine Gialle, che scoppola, meno 7%, GDF Suez meno 6,91%, Ciccolella meno 6,5%, Risanamento meno 4,80%, Astaldi meno 4,70% sui titoli più sottili. Tra i maggiori invece oggi pesanti settore costruzioni, ma anche tutti i settori legati all'economia e alla finanza, visto che Unicredit ha perso il 3,2%. Ce n'è a sufficienza per chiedere a Guido Maurino che è successo oggi sui mercati. Sì, diciamo che sui mercati tornano le preoccupazioni per l'economia. Tornano per varie ragioni, soprattutto diciamo per i timori sull'immobiliare negli Stati Uniti, dopo che ieri sono usciti alcuni dati poco confortanti rispetto a nuove licenze e cantieri, ma diciamo che in qualche modo questa situazione è ben fotografata anche dall'OCSE, che ha sì annunciato una revisione al rialzo delle prospettive per i prossimi anni, ma anche detto che sui paesi sviluppati la crescita sarà ancora modesta, più 1,9 nel 2010 e più 2,5 nel 2011. E infatti facciamo dei calcoli che per recuperare un 5% con questa crescita in media avrei bisogno di 3 anni, quindi si slitta al 2012. In Italia forse anche di 4, si sviluppa 2013. Allora, si diceva male i titoli delle costruzioni, in pregiro i talcementi meno 4,1% e anche Steam Microelectronics perde il 4% come Pirelli e Mediolanum, il 3,6% lo perdono le CIR e Bulgari, il 3,4% Tenaris, il 3,3% il caldo del Banco Popolare di Intesa San Paolo, di Autogrill, di Ansaldo STS, il 3,2% lo ha perso Unicredit, il 3% Mondadori ed Exor. E titoli delle costruzioni da un lato e anche i bancari dall'altro. Guido. Sì, allora i titoli delle costruzioni oggi hanno perso e hanno perso anche perché ieri una giornata non brillante per i listini, erano stati fra i pochi titoli a chiudere in terreno positivo, in particolare su Impregilo oggi sono arrivate le prese di beneficio dopo il rialzo sostenuto, un più 2% di ieri, quando la società aveva annunciato di essersi aggiudicata una commessa da 225 milioni per la progettazione e la realizzazione di un tratto della A4 Venezia-Trieste, l'ampliamento della terza corsia su questo tratto. Per quello che, riguarda le banche, non ci sono ragioni particolari, nel senso che è una debolezza generale di tutto il settore bancario, non solo in Italia ma anche nelle altre piazze europee. Tornano qualche preoccupazione, c'è stato anche oggi appunto Gainer che ha invitato oggi le banche a tornare a prestare i soldi, per cui è stata una giornata diciamo generalmente debole. Ecco. Su tutto il settore, quindi poche eccezioni, dico Fondiaria Sai più 0,80%, comunque ieri la società ha confermato che prevede una cedola, un dividendo di 70 centesimi, forse 80 centesimi di euro per il 2010-2011. Un'ultima notizia invece su Seat Pagine Gialle, perché è la peggiore in assoluto di tutto il mercato, meno 7% a 17 centesimi di euro per azione. Sì, qui c'è un episodio fra virgolette divertente, nel senso che c'è un report da parte degli analisti di Kepler, nel quale appunto gli esperti consigliano non solo di vendere le azioni, ma ormai stimano che il valore dell'azienda è pari a zero, il loro target di prezzo infatti è stato portato da 0,1 a 0 euro. Gli analisti, ma che target di prezzo è zero? Vuol dire che sostanzialmente non... cioè, loro ormai dicono sostanzialmente la società non riuscirà a rispettare i covenants sul debito e si prospetta un rischio di fallimento, per cui è come se l'azienda non avesse più valore. E la diciamo così tranquilla quest'ora con molti azionisti, no non ce l'ho mica con te, però spero che gli analisti di Kepler abbiano valutato attentamente quello che dicono. Comunque il titolo ha perso il 7% e a 17 centesimi di euro per azione. Ancora tra altri titoli che hanno perso oltre a quelli citati Mondadori e Exor il 3%, il 2,80% l'hanno perso Mediaset e Prismian, il 2,70% Buzzi Unicem, ma anche l'Automatic e le Generali, il 2,5% il calo di Fiat e Telecom Italia, il 2% quello di Finmeccanica e Mediobanca. E qui ci fermiamo. E allora, oggi a Milano, presso la Borsa Italiana, è stato consegnato il premio Ernst Young Imprenditore dell'Anno, giunto alla 13ª edizione. Noi spesso parliamo con gli imprenditori anche per capire come stanno affrontando la crisi, i casi più, diciamo così, da studio. Ha vinto quest'anno Brunello Cucinelli, che è presidente e amministratore delegato di Solomè, un'azienda umbra che è famosa in tutto il mondo, soprattutto tra il pubblico femminile, per i capi in cashmere colorati. Siamo in collegamento con Brunello Cucinelli. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, complimenti, perché è uno dei premi più ambiti per gli imprenditori, quello Ernst Young, che lei ha vinto. E il riconoscimento le è stato assegnato per la continua ricerca del benessere psicofisico e della qualità della vita negli ambienti di lavoro e per l'importante azione svolta per il recupero e il restauro di costruzioni storiche e la continua attenzione in favore dell'educazione e della cultura. Io traduco: lei ha vinto questo premio per l'ambiente lavorativo che ha creato e ha saputo creare nel suo gruppo, e anche perché ogni anno voi destinate il 20% del fatturato, che è di 150 milioni di euro, per ristrutturare il borgo di Solomeo, che dà il nome alla vostra azienda. Che investimenti avete fatto sul cosiddetto ambiente lavorativo? Intanto le volevo dire due parole. Siamo molto onorati di questo, perché è un omaggio alla nostra gente, alla tolleranza, alla creatività e alla fierezza di queste mani sapienti dell'Umbria, e quindi questo ci fa molto onore, e onestamente anche un grande omaggio ai nostri pensatori dell'umanità, che in qualche maniera ci hanno educato a far sì che l'anima possa essere veramente sempre la fonte di questi grandi pensieri. Cucinelli, lei è un imprenditore mistico, mi dice era un complimento. Mi dice, sul fronte dell'ambiente lavorativo, voi per esempio avete deciso di pagare, questo ancora l'anno scorso, due anni fa, i dipendenti il 20% in più del contratto nazionale, e avete vietato a tutti di lavorare oltre le 18? Sì, ma guardi, io onestamente ho sempre pensato, volendo dare un prodotto di grande artigianalità e di grande qualità, e spero anche di creatività, che solo l'essere umano può aiutarci in questo, e quindi volevo creare un ambiente di lavoro dove l'essere umano in qualche maniera si sentisse un po' più a suo agio, guadagnasse qualche euro in più. E poi una parte dei profitti, quindi il 20% del profitto, lei prima ha detto del fatturato, chiaramente volevo precisare del profitto, destinarlo per abbellire l'umanità, e che significa un teatro piuttosto che il restauro di una chiesa. In qualche maniera la persona lavorando, perché guardi, lavorare per 1200 euro al mese e fare un lavoro ripetitivo a 23 anni non può essere chiaramente un grande sogno, no? Invece facendo così io pensavo che l'essere umano si sentisse in qualche maniera colui che può abbellire l'umanità. Quindi da una parte siamo 500 persone che lavoriamo, tutti entriamo alle 8, tutti smettiamo alle 6, perché ho l'impressione che dopo le 6 ci si debba riposare lo spirito, l'animo e il corpo. Abbiamo una pausa pranzo importantissima, perché è tipica delle nostre terre. Quindi questo è un po' il sistema di lavoro. Volevo in qualche maniera rendere dignità morale ed economica al lavoro. Beh, ho detto mistico, ma anche umanista a questo punto, Cucinelli. Tra l'altro, il ritorno, so che è difficilmente quantificabile, che lei ha avuto da questo tipo di iniziative, appunto tutte volte a creare un ambiente di lavoro un po' diverso da quello classico, in cui più stai dentro meglio è, anche se hai poco da fare delle volte, ma l'importante è andarsene dopo che se ne va il capo, oppure ambienti in cui la pausa pranzo viene considerata un accessorio quasi di lusso, in cui sugli stipendi si cerca di andare sempre a contrattare la parte minima. Insomma, che ritorno ha avuto lei da questo tipo di filosofia aziendale? Guardi, le devo dire la verità, il primo di tutto, assenteismo volontario inferiore a zero, perché se qualcuno ha la febbre poi magari al terzo giorno rientra al lavoro prima che deve, no? Ma poi io credo anche un attaccamento al lavoro speciale. Ma guardi, c'è una cosa nuova, le dicevo prima, un giovane che viene a lavorare in un'azienda dopo 30 secondi sa tutto dell'azienda, contrariamente a mio padre che non conosceva niente del suo datore di lavoro, no? Quindi io credo che noi in qualche maniera potremmo promuovere un sistema nuovo di rapporti tra impresa e collaboratore, perché le ripeto, lavorare per 900 euro a 23 anni in un'azienda e fare un lavoro ripetitivo la trovo una cosa un po' difficile. E vedo che annuiscono anche dall'altra parte del vetro. Veniamo alla situazione però attuale, perché anche la crisi si sente anche per voi. Voi operate in un settore come quello della moda che sta particolarmente soffrendo. Vorrei capire una cosa: lei è nato da una famiglia contadina, nel 1979 a 25 anni con 500.000 lire, se non ricordo male, prestatele da una banca, quindi vede che le banche poi servono e quando operano bene sono assolutamente utili. Ha assunto 3 operaie, ha comprato 3 chili di cashmere, cioè un chilo operaia, e li ha colorati con un colore così brillante che insomma ha decretato il successo della sua azienda. Questo per dire che forse, memore della sua esperienza iniziale, qualche consiglio su come affrontare la crisi ce lo può dare e su come la state affrontando. Ma guardi, intanto direi la cosa più positiva è che questa ultima stagione tutti i grandi buyers del mondo sono arrivati in Italia con idee molto chiare: vogliamo comprare un prodotto di grande qualità, di grande artigianalità, di grande creatività italiano, e questo ci fa molto piacere perché fa ben sperare per le aziende non solo con il marchio proprio ma anche per i veri produttori italiani di grande qualità. Questo quindi la trovo abbastanza positiva. Io poi l'anno scorso ho fatto una cosa importante, sempre immaginando di investire nell'uomo. A settembre ho detto a tutti i miei ragazzi: io posso per un anno e mezzo non licenziare nessuno, prendiamo soldi dall'azienda, come contropartita vorrei che foste ancora più speciali, specialmente sotto il profilo umano, perché guardi, quando le cose sono un po' più difficili si è anche più deboli sotto il profilo spirituale e morale, quindi una telefonata in più, una coccola in più e dire magari ti sono vicino in qualche maniera fa. E le devo dire la verità, che ho l'impressione che questa crisi sia molto meno grave da come noi l'immaginavamo in novembre, dicembre, gennaio dell'anno scorso. Non vuol dire che non ci sia, cerchiamo magari di capire, però è un filino meno lieve, si intravede già un mondo leggermente diverso e onestamente anche sotto il profilo morale, etico, mi sembra che ci sia una sorta di nuova aurora di pace, no? Oh, io me lo auguro, Cucinelli, la vorrei tutti i giorni, così lei mi fa da antigufo, che è un animale che noi utilizziamo per certe notizie particolarmente così funere. Un'ultima domanda però, ce l'ho per lei: quando le dice che ha detto un anno e mezzo fa io non licenzio nessuno, però vorrei un po' più di attenzione al fattore umano, che cosa voleva dire in concreto? Volevo dire che in qualche maniera di essere ancora più concentrati su ciò che stiamo facendo, che è quello che fece in qualche maniera Marco Aurelio, sapendo di avere una battaglia importantissima, disse unicamente ai suoi soldati: domani l'impero romano ha bisogno di noi. Ecco, un richiamo a questo, un richiamo ad essere ancora più speciali, specialmente sotto il profilo umano, magari perché pensavo che dicendo di non licenziare per un anno e mezzo in qualche maniera si poteva essere più creativi, perché si viveva e si lavorava in un'atmosfera leggermente migliore. Quanti dipendenti ha lei, Cucinelli? Abbiamo 530 dipendenti diretti qui e poi ci sono 1200 persone in giro per la nostra Umbria e nelle Marche. Quindi la concorrenza cinese alla fine lei non la sente? No, io credo che, guardi, vivendo 6 mesi l'anno in giro per il mondo, posso dire ancora una volta che veramente quando si parla di modo di vita in generale si fa riferimento al modo di vita italiano, e questo per noi credo possa essere una grande chance. Il problema vero è come faremo ad avere giovani, 23 anni e 25 anni, che si convincono a fare dei lavori di grande qualità con le mani. Quindi il mio obiettivo sarebbe quello di ridare dignità morale ed economica al lavoro, specialmente artigianale. In bocca al lupo, lei è una bella iniezione di Prozac per tutti quelli che sono in ascolto. Complimenti ancora a Brunello Cucinelli, presidente e delegato della Solomeo. E complimenti soprattutto per aver vinto oggi il premio Ernst Young Imprenditore dell'anno. Da quello che ci ha raccontato si capisce anche perché. Grazie, che Dio illumini il nostro cammino, come dice i miei stimati benedettini. Grazie a lei, Cucinelli. Grazie di cuore, arrivederci, grazie. Beh, chiudiamo bene oggi, mi sembra, almeno ispirati. Spero che a questo serva l'intervista a Cucinelli. Alcuni di voi la ricordano un'altra intervista, un altro imprenditore che affronta il mondo dell'impresa, del rapporto umano, dell'investimento in quello che con un terribile termine si chiama capitale umano, i rapporti lavorativi, Mirko Gasparotto. Sì, sono molto simili, pur facendo due cose molto molto diverse, ma come approccio al mondo dell'impresa e al luogo dell'impresa, che non è solo il luogo, diciamo, della produzione in senso stretto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.